Generalmente ci trovavamo in giardino, su una panchina, all'ombra del pergolato. Oppure nella sala da pranzo, dove trascorrevano le ore, a guardare un televisore che mandava immagini col volume al minimo. Quella volta era diverso. Mi ero chiesta cosa fosse accaduto e avevo deciso di andare a vedere. Così mi avvicinai all'ascensore e, cercando di fare il più rapidamente possibile, mi ci infilai. La luce era fastidiosa e costringeva i miei occhi a stare aperti quel poco che bastava per non sbattere da tutte le parti. Superai i primi 3 piani indisturbata. Al 4° piano, le porte dell'ascensore ci misero un po' ad aprirsi. E in quel tempo, che durò pochi secondi, provai a immaginare come l'avrei trovata. Cosa le avrei detto? Ero curiosa di vedere la sua stanza, di conoscere la sua vicina di letto, di vederla nel suo habitat. Quando le porte dell'ascensore si aprirono, la puzza di piscio mi penetrò nella pelle e nel palato. Fu un'impresa uscire di lì perché provavo un dolore fortissimo, nonostante la morfina e tutto il resto. Il 4° piano era diverso dagli altri. Grandi vetrate separavano le stanze dal corridoio e sembrava che i vecchi fossero in esposizione. Una specie di mostra d'arte contemporanea fatta di materiale vivente. Insieme al piscio distinsi benissimo l'odore del disinfettante che qui e lì arrivava a zaffate e in un angolo notai un secchio pieno d'acqua sporca a testimonianza dell'operosità degli addetti alle pulizie. Mi attentrai. In infermeria non c'era nessuno, tantomeno nei corridoi. Dagli sguardi che mi arrivavano attraverso le vetrate, capii che, a parte gli infermieri, lì non circolava nessuno. Mi guardavano come se venissi da un altro mondo. Credo fosse a causa della mia giovinezza. Ecco perché Agnese mi aveva letto a sponda per ogni suo discorso, ogni suo pensiero, da quella volta in giardino in cui ci trovammo vicine. E lei afferrò la mia mano e me la baciò con insistenza, lasciandomi sul dorso un assaggio di quella vischiosità che allora non avevo ancora imparato a conoscere. Ero lì per trovare Agnese, solo questo mi interessava. Non certo soffermarmi sugli sguardi dei vecchi. Li sfioravo con gli occhi solo per accertarmi che nessuno di loro fosse Agnese. C'era un silenzio di tomba e mi chiesi se anche lì, di notte, i vecchi invocavano la madre e i fratelli, piombando senza preavviso nel mondo della primissima infanzia, a cercare la tetta tra le braccia della mamma. I primi tempi sobbalzavo, poi non ci facevo più caso. Una volta mi alzai dal letto, percorsi il corridoio e ne raggiunsi uno. Feci finta di essere una madre piena di latte. La bocca bavosa del vecchio si incollò al mio petto e finalmente smise di piangere. L'indomani lo trovarono morto e io pensai di meritare un premio per com'era andata. Agnese. Agnese era l'unica vecchia in piedi sulle sue gambe. Sembrava uscita da una tomba scoperchiata in un cimitero in cui bisogna mettersi in fila. Mi vide e, senza neanche farmi un cenno, mi venne incontro trascinandosi come sempre il catetere mezzo pieno. Sembrava uno scorfano dentro un acquario. Aprì la porta di vetro e, come se non bastasse, il piscio mi riempì i polmoni, facendomi rivoltare le budella fino a che non mi abituai. La sua compagna di stanza non faceva alcun rumore, ma aveva gli occhi aperti. Agnese mi guardò con uno sguardo dei suoi e questo mi calmò. Capii che voleva dirmi qualcosa. Era strana, agitata. Mi sembrava di non averla mai conosciuta prima. Mi tornò alla mente il mio primo giorno, quando ancora credevo che me la sarei cavata con qualche mese. d'estate, come adesso, e c'era un caldo asfissiante. Io e Luigi varcammo la soglia e ci sembrò di essere in un grande albergo. Da un lato una centralinista carina e indaffarata, dall'altro una grossa pianta, oltre la quale vidi un uomo che parlava alla propria immagine riflessa sullo specchio. Era zio Mario, che rimase vivo per molti anni ancora. Mi portarono subito al colloquio con la psicologa. Chiesi a Luigi di aspettarmi e lui si mise seduto proprio accanto al muro di vetro che separava l'accoglienza dall'ingresso. Io avevo capito che lui voleva andare via e cercavo di rimandare il momento in cui questo sarebbe accaduto. In quella maledetta stanza non c'era una psicologa, ma un gruppo di medici che mi spiegò l'importanza della riabilitazione per la buona ripresa della funzionalità dell'arto. Illustrarono lo schema della fisioterapia e mi dissero che mi sarei trovata talmente bene da non voler mai più andare via. Finito il colloquio, furono i medici a chiedere a Luigi di fermarsi qualche ora con me. Giusto il tempo di ambientarsi, gli dissero, buttando gli occhi dalla mia parte. Mi fecero sedere su una sedia a rotelle e mi portarono al primo piano. Luigi mi aspettò in giardino. Nella mia stanza mi aspettavano Sara, Clara e Lucia. Di loro tre è rimasta solo Lucia. A quell'epoca credeva ancora che la sua storia d'amore con Antonio si sarebbe presto risolta nel matrimonio. Senza capire che qui dentro non c'è posto per quel genere di cose. Stavano servendo il pranzo e sul carrello c'era il vassoio destinato a me. La stanza era grande e luminosa, la porta era aperta, gli armadietti vicino ai letti non avevano serratura e da fuori si poteva vedere ciò che stava sopra gli scaffali. Ognuno al proprio posto mangiava ordinatamente, mentre dal televisore, in alto sulla porta, si sentivano le urla del conduttore di un programma di giochi a premi. Non mangiai nulla. Presi l'ascensore con un dolore pazzesco ai polsi per colpa delle stampelle. Attraversai l'ingresso e raggiunsi Luigi nel giardino. Era una specie di terrazzo, a livello appena più alto della strada, con le panchine, i lampioni e l'entrata del bar. Non c'era nessuno perché stavano tutti a pranzo e dalle finestre aperte si sentivano i televisori nelle stanze tutti sintonizzati sullo stesso programma di giochi a premi. Io e Luigi passammo almeno due ore, a non dirci nulla in attesa che arrivasse il momento di separarci. Poi pian piano il giardino si riempì. Come zombie sbucavano da tutte le parti. E lì cominciai a capire la stranezza di questo posto. Fu allora che vidi Agnese, seduta su una panchina, sola, inerte. Sembrava millenaria. Aveva uno sguardo vivo, sebbene lontano, un'aria fragile e il catetere vicino ai piedi. Capii subito che era diversa dagli altri. Ma non potevo certo immaginare in che senso era diversa. Trattenni Luigi fino a sera, quando si accorse di aver fatto così tardi da perdere l'ultimo treno per la città, si arrabbiò con me, disse che l'avevo fatto apposta e cercò di farsi venire in mente il modo più rapido per raggiungere la stazione. Gli infermieri di turno gli confermarono che l'ultimo treno era perso e che il primo a partire sarebbe stato soltanto il giorno dopo. E poi, se anche avesse fatto l'autostop, chi si sarebbe fermato nel buio della notte, in una strada sperduta in mezzo alla campagna, dove non c'erano altre luci se non quelle fioche e lampadine a piombo piazzate nel giardino dell'ospedale? Lui si incazzò moltissimo e litigammo ad alta voce. Se voleva andarsene, che andasse via, per non tornare mai più. Contravvenendo alle regole dell'ospedale, Gli infermieri di turno gli offrirono la possibilità di passare la notte dentro l'edificio, chiuso a chiave nella stanza dei medicinali, all'insaputa dei colleghi e dei dottori. Suo malgrado accettò, d'accordo che il mattino dopo, all'alba, sarebbe andato via per non essere scoperto dagli infermieri del turno successivo. Io avrei voluto che il mattino non arrivasse mai e che quella notte durasse per sempre. Lui non riposò, svegliato di continuo dagli infermieri che andavano a prendere i calmanti per quei vecchi che rischiavano di morire soffocati dai loro pianti infantili. Io rimasi sveglia e riuscii a prendere sonno soltanto quando già potevo leggere le prime luci del giorno. Credo di aver dormito pochissimo, perché fui svegliata brutalmente, lampadina negli occhi e un ago nel braccio. Non ho più scordato la faccia grossa dell'infermiere, chino su di me. Provai a liberarmi per andare a cercare Luigi, ma non ci riuscii. Mi trattennero. La gamba mi faceva un male cane, gli infermieri erano in due. Come facevo? Dovevo vedere se Luigi era ancora lì o se se n'era andato via per sempre. Me lo impedirono. Mi sequestrarono le stampelle, mi dissero: queste non ti servono. E mi fecero sedere su una sedia a rotelle per portarmi nella stanza dei colloqui. In cuor mio sapevo che Luigi non era più lì, ma lo cercai ugualmente, con gli occhi, da tutte le parti. Niente. Se l'era svignata. E sicuramente a quell'ora era già un pezzo lontano. Forse si stava preparando ad andare in vacanza, senza di me. L'avevamo programmata una vacanza insieme. Sarebbe stata bellissima. Avremmo festeggiato i miei 18 anni e sarebbe stata un'estate indimenticabile. Se non fossimo andati su quel cazzo di monte a farci di allucinogeni. Mi fecero passare di fronte alla stanza dei medicinali e poi per il pianerottolo e poi ancora attraverso il giardino. Mi spinsero verso un ufficio della sezione amministrativa dove c'erano alcune donne vestite da assistenti sociali. Mi sottoposero a uno stupidissimo interrogatorio. Mi chiesero se bevevo, se fumavo, se fossi allergica, se ero cattolica. Mi ponevano le domande senza interesse, continuando a smistare bolle di consegna di grandi pacchi di biancheria sporca poggiati lì da qualche parte. Io mi inventai una serie di cazzate. Quando mi chiesero dell'incidente, non dissi loro neanche un pezzetto di verità. Non mi ricordo più cosa raccontai, ma certamente non dissi nulla di quello che accadde quel giorno. Avevo appena fatto gli esami di maturità e mi sentivo leggera come l'aria. Finalmente avevo finito. Mi aspettavo una vacanza, solo io e lui. Per la prima volta avremmo fatto un viaggio insieme. Luigi venne a prendermi a scuola. Io chiamai i miei genitori e dissi di non aspettarmi perché sarei andata a festeggiare con gli amici. Mi passarono mio fratello, che mi fece i complimenti e mi disse: torna presto, che c'è una sorpresa per te. Della sorpresa non seppi più nulla. Eravamo in 4 o 5. Non mi ricordo esattamente. Camminavamo sparpagliati per la montagna. C'erano anche Alessandra e Vittorio. E anche Renzo. Salimmo senza parlare, in attesa che l'LSD facesse effetto. attraversammo zone piene di rovi, attenti a non farci male. Solo io mi graffiavo dappertutto. Renzo si arrampicò su una roccia alta. Era magrissimo e sembrava molto agile. Luigi si fermò davanti a me e cominciò ad accarezzarmi il viso. Avevo le labbra ferite perché me le mordevo insistentemente e mi sembrava che litri di sangue uscissero dalla mia bocca. Mi ricordo che il mio cuore si fermava e poi ricominciava. Per tante ore ho creduto che le spine mi si fossero conficcate ovunque e mi sembrò che le rocce su cui camminavo fossero teschi di uomini e donne passati di lì e essiccati al sole. Oggi so che si trattava di una visione premonitoria e che tutti quei morti che calpestavo in preda all'acido lisergico non erano altro che gli uomini e le donne che avrei incontrato una volta entrata qui dentro. Come accade della gamba? Non l'ho mai capito. Mi ricordo le facce degli altri. Ero a terra e ridevo. Vedevo i miei amici stagliati contro il cielo e non sentivo alcun dolore, tanto che provai a mettermi in piedi per raggiungerli. Loro però erano lontanissimi e la mia gamba era spezzata in due. Anche se non sentivo il dolore, non avevo più l'appoggio del piede ed ebbi la visione di un pezzo di carne morta con tanti insetti intorno. Sebbene fosse turbata e continuasse a fissarmi, Agnese era comunque felice di vedermi. L'avevo capito, perché tutte le volte che mi incontrava notavo che dentro al lungo tubicino che spuntava dalla camicia da notte ricominciava a scorrere quella pipì quasi marrone che colorava la sacca che si portava sempre appresso. Avevo imparato a farci caso e la cosa mi piaceva. Sentivo che ero speciale per lei, che si era affezionata a me. Fin dal primo incontro, dal giorno del bacio, quando mi prese la mano, mi disse il suo nome e poi aggiunse: «Sono qui per te». La cosa mi lasciò senza parole, perché all'epoca non sapevo distinguere tra un vaneggiamento e una veggenza. Comunque, quel primo giorno ci lasciamo quasi subito, perché vennero in due per portarmi a fare la fisioterapia. La palestra era enorme, grande come adesso, senza quello spazio che oggi chiamiamo l'ala ovest. Uno dei quattro lati era completamente ricoperto da sedie a rotelle. I pazienti laggiù erano mutilati, storpi, che con fatica cercavano di riconquistare l'uso di una parte del proprio corpo. Ci ritrovai Lucia. La guardai bene e capii che aveva più o meno 25 anni, anche se ne dimostrava 40. Era molto truccata e aveva un gran testone con degli occhi neri appuntiti che ti squadravano dalla testa ai piedi. Stava facendo degli esercizi per fortificare le braccia. Così andava dicendo: «Quando potrò camminare con i tutori, sarò abbastanza forte da reggermi in piedi». Lucia mi guardò e mi diede il benvenuto. Mi venne incontro un uomo, Bruno, che mi indicò la stanza per fare una terapia con delle onde magnetiche. Dovevo stare immobile, sdraiata su un lettino fasciata da bende collegate a fili elettrici. Mi ricordo che il tempo non passava mai. Insieme a me c'era Miranda, la più giovane di tutti. Allora aveva 13 anni e si comportava come fosse una bambina. Si attaccò a me in modo morboso. Era orfana perché aveva subito un grave incidente in cui aveva perso tutta la famiglia. Solo lei era rimasta viva. Oggi non mi riconosce più. Anche lei è irriconoscibile. Ha perso tutti i capelli e tutti i denti, anche se lo sguardo è rimasto lo stesso. Mi ricordo che una volta le depilai le gambe. Me lo chiese lei e io feci ciò che avrebbe voluto facesse sua madre. Appena possibile, raggiungevo Agnese in giardino. La trovavo seduta sempre sulla stessa panchina, sola, non parlava mai con nessuno. Su di lei si era creato un po' di mistero. Mi fu detto che da anni non parlava più e che era una da evitare, perché dicevano, quando vuole sa metterti in difficoltà. A me sembrava che mi aspettasse e che si era abituata alla mia presenza. Così passavamo il tempo a guardare dalla stessa parte. Finché un giorno si accorse che la mia gamba stava migliorando. Mi chiese di mostrargliela, e così feci. Quando capii che camminavo meglio, mi mise in guardia. Mi chiese se volevo tornare là fuori, se ero sicura di quello che stavo facendo. Dire il vero, no, non mi parlò così chiaramente, al contrario. Usò una di quelle sue frasi ad effetto che mi facevano immaginare che dietro ci fosse qualcosa di importante da scoprire. Era seduta, con il suo sguardo immobile. Mi prese la mano e cominciò a succhiarmi il dorso, come se volesse impossessarsi di una parte di me. Poi mi guardò negli occhi e mi disse: «Dimmi un po', come ti senti da viva?» Pensai che fosse un'allucinazione dovuta a un effetto tardivo dell'LSD. Ci misi molto a capire che Agnese aveva un piano e che tutto quello che sarebbe accaduto dopo sarebbe stato opera sua. Dopo quell'incontro ero sfinita e di notte non riuscii a dormire. Mi alzai. Non avevo più le stampelle e provai a trascinarmi la gamba lungo il corridoio buio. C'erano dei puntini luminosi sul soffitto a segnare il percorso delle telecamere di controllo. Scesi al pian terreno e andai vicino all'ingresso, dove c'era scavata una piccola nicchia con un divano e un enorme specchio. La sagoma nera in cui mi imbattei era quella di Maria Pia. Altre volte l'avevo incontrata lì, nei pressi dello specchio, a litigare con lo zio Mario. La riconobbi subito. Aveva una certa peluria sotto il mento e due grandi occhioni blu che la facevano somigliare a una capretta smarrita. Le dita piene di anelli e usava portare sotto il braccio pesanti borselli e un mucchio di vecchi giornali. Stava parlando allo specchio e mi rimproverò di averla disturbata. Disse che avevo fatto scappare la persona con cui stava ragionando. Si mise a bestemmiare e sparì nel buio. Io rimasi sola. E fu allora che improvvisamente, senza alcuna premeditazione, presi una vite che stava a terra e me la conficcai nella gamba, all'altezza del polpaccio. La piantai così profondamente che uscì tanto sangue. Con la gamba insanguinata tornai nella mia stanza. Lucia era sveglia ma fece finta di dormire per non essere disturbata, per non doversi occupare di una cosa come quella. Lasciai tracce di sangue lungo il corridoio e sul lenzuolo. Gli infermieri vennero da me, accesero la luce, mi fasciarono e mi sedarono con una dose massiccia di ansiolitico. L'indomani fu chiaro a tutti che quello era solo l'inizio. Continuava a pronunciare delle frasi insensate che io prendevo per ordini tassativi. Ero certa che mi ordinasse di distruggermi la gamba. Solo così non ci saremmo più lasciate. Era il nostro modo di stare assieme. Avevamo trovato il nostro linguaggio. Sentivo che la mia devozione diventava dipendenza e cominciai a non poterne fare più a meno. Mi ferivo in continuazione. Di giorno, come di notte, in solitudine o in mezzo agli altri. E lo scopo era uno solo, non guarire mai, per non lasciare Agnese tutto quel mondo che pian piano aveva dato una casa alla mia inquietudine di gioventù. A causa di tutte le ferite che mi andavo procurando giorno dopo giorno, i medici mi interruppero la terapia magnetica e la idroterapia. Mi dissero che si sarebbe dovuto aspettare che le ferite guarissero. Ma quelle non guarivano mai, perché io avevo trovato il modo di procurarmene sempre di nuove. Il fisioterapista Bruno un giorno ammonì: «Lo sai che nelle tue condizioni anche un taglietto insignificante può provocare delle grosse infezioni?» Era quello che volevo sentirmi dire. Non avevo paura del dolore, anzi. L'unica cosa a cui pensavo era Agnese. Era lei che cercavo, che desideravo. La sua faccia, il suo sguardo. Cominciai a muovermi a fatica. Buttavo nel cesso le pillole che mi venivano passate. Sentii dire ai dottori che temevano si aggiungesse un problema vascolare. Così mi misi in testa di procurarmelo da sola. Cominciai a stringermi la gamba con ogni sorta di laccio durante la notte, in modo da farla diventare un cilindro compatto e dolente dal colore violaceo. I medici mi chiamarono, mi portarono nella stanza dei colloqui e non mi fecero neanche una domanda. Mi guardavano e non parlavano. Ogni tanto bisbigliavano fra di loro in modo tale che io potessi sentire una parola o due, ma mai l'intera frase. Quella pantomima durò delle ore. Poi mandarono a chiamare Bruno, il fisioterapista. Gli dissero che bisognava intensificare il programma, perché io ero quasi pronta. Ero pronta. A che? Quando uscì da quella stanza, intravidi Agnese seduta sulla nostra panchina e un senso di pace si impossessò di me. Mi feci portare da lei e finalmente mi disse che per nulla al mondo avrebbe rinunciato a me. Capii che non le bastava quello che stavo facendo. Voleva di più. La mia gamba doveva andare in necrosi. Ecco cosa dovevo ottenere. In palestra oramai non ci andavo più. E quando mi chiamavano, stavo lì ore a guardare gli altri, fare sforzi sovrumani per ottenere risultati ridicoli. Mi ricordo che una volta vidi un vecchio senza una gamba calzare una protesi nuova. Se la provava, come si prova un paio di scarpe. E io provai disgusto, Dissi a me stessa che non l'avrei voluta la protesi. Che senso aveva mandare la gamba in malora per poi sostituirla con una finta? Agnese un giorno mi stupì per la sua chiarezza. Per la prima volta non buttò giù frasi sconnesse come un padrone butta l'osso al cane, ma mi parlò in modo semplice e sintatticamente preciso. Mi chiese se ero disposta a farmi tagliare la gamba e a restare con lei per sempre. Io la guardai e capii che dovevo portare a compimento ciò che avevo cominciato. Quando i medici si accorsero che l'infezione era estesa, mi bendarono la gamba con fasciature da cui io non riuscivo a liberarmi. In quei giorni Agnese era dura, nervosa, severa. Quando mi tolsero le bende, però, si accorsero che la mia gamba era ricoperta di pustole piene d'aria. Così mi presentai a lei. Quel giorno il giardino era affollato e nessuno fece caso a noi due. Agnese mi prese la mano e, come aveva già fatto le altre volte, cominciò a baciarmela, ricoprendomela di schiumetta luccicante. Vennero i soliti due infermieri. Mi misero davanti allo specchio. Ero magra, gialla in faccia, e sulla mia gamba c'erano i segni evidenti di una tromboflebite devastante che si aggiungeva allo stato infettivo. Mi avvisarono che avrebbero dovuto amputarmi la gamba per impedire l'espandersi della necrosi. Cercai subito Agnese per darle la bella notizia, ma non la trovai. Da quel giorno non riuscii più a incontrarla, perché sparì. Io la cercavo invano, finché arrivò il momento di entrare in sala operatoria. Senza di lei, mi sembrò che tutto fosse privo di scopo. Non ne capivo più il senso e per un attimo mi convinsi di aver sbagliato. Sentivo un gran vuoto perché temevo che Agnese mi avesse abbandonata al mio destino. Quando mi risvegliai dall'operazione, al posto della mia gamba c'erano un mucchio di bende bianche e rosse di sangue rappreso. Nonostante non riuscissi a darmi pace, provai uno strano senso di appagamento per la mia nuova condizione. Fu allora che mi portarono al secondo piano. Non ero mai salita lassù e appresi che quello era il piano dei mutilati, proprio come in seguito mi resi conto che il quarto piano apparteneva a coloro in attesa di successione. Io avevo fatto tutto quello che Agnese mi aveva chiesto di fare e ora lei era sparita. Per molti giorni non la vidi e stavo impazzendo. Dov'era Agnese, la mia guida, la mia madre, l'origine di tutte le cose? Imparai a vivere con una gamba sola. Mi facevo di morfina e i dosaggi erano sempre più alti. Ecco perché quel giorno andai a cercarla al quarto piano. Ce l'avevo di fronte, proprio come me e te. Volevo la sua approvazione, volevo che mi dicesse che ero stata brava, che ero attendibile, che era soddisfatta di me, che aveva fatto bene a riporre in me la sua fiducia. E invece non mi disse niente. Cominciò a tremare e mi chiese di coprirla con una coperta. Mi disse che ero pronta a prendere il suo posto, perché così era scritto e così lei aveva deciso. Mi disse che mi aveva scelta tra tante. Aveva conosciuto Lucia, Miranda, tutte le altre giovani. E aveva scelto me. Ero io, il suo successore. Io, che avrei garantito la continuità. In quel momento capii cosa volessero dire i medici. Con quel ti troverai così bene da non voler mai più andare via. Agnese morì stringendosi a me. Nemmeno un rantolo. Anche quella volta fu parca di fiato. Il suo corpo era leggerissimo. Mi guardò negli occhi, sapendo che non l'avrei mai tradita, che avrei preso il suo posto. Le sfilai il catetere e l'adagiai sul letto. La gamba mi doleva, cioè l'idea della gamba. Il ricordo di un arto la cui assenza era diventata necessaria per dirmi chi ero e quale posto avessi nel mondo. Capisci adesso perché sei tu quella che voglio. Quando ti ho vista, ho capito che sei tu quella giusta. In tanti anni ne ho conosciuti di giovani, maschi, femmine, ma con te è diverso. Ti ho osservata. Tu non hai la smania di tornare là fuori. Non ti mancano la tua casa, i tuoi genitori, gli amici. Hai capito cosa devi fare?